Bene, allora, avete ascoltato gli appoggi di tutte le parti del corpo per terra, partendo dai piedi, arrivando fino alla testa, supini, e adesso vi mettete sul fianco sul quale state sdraiati meglio, con le gambe piegate, e lo scegliete in base al braccio e alla spalla più liberi. Quindi vi mettete sul fianco che vi permette di muovere la spalla e il braccio più liberi. Siete su questo fianco con le gambe piegate e le braccia allungate avanti. E adesso piano piano cominciate a muovere il braccio sopra, esempio, se siete sul fianco sinistro, il braccio destro, verso il soffitto, e lo riportate avanti. E man mano cominciate ad aprire sempre di più il braccio, come per arrivare con le braccia aperte a croce, e osservate fin dove arrivate. E osservate se respirate e se ci sono altre parti del corpo che muovete. Ok, adesso rimanete sul fianco, sempre sullo stesso fianco, con le braccia avanti, una sopra l'altra, e questa volta sollevate il braccio che è sopra verso il soffitto, quindi siete con la mano del braccio sopra. Rifacciamo l'esempio: se siete sul fianco sinistro, siete col braccio destro verso il soffitto, la mano verso il soffitto. In pratica state fermi, il braccio è perpendicolare a terra, con la mano rivolta verso il soffitto, e questa non ho allungato il braccio. Le dita, le punte delle dita al soffitto, e questa è la posizione di partenza. E adesso piano piano allungate la mano e il braccio verso il soffitto, come per voler toccare con le dita il soffitto, e tornate in posizione di partenza. Posizione di partenza significa braccio perpendicolare a terra, non appoggiato per terra avanti sopra l'altro. Quindi posizione di partenza è braccio in su verso il soffitto, e da questa posizione di partenza allungate ancora di più la mano al soffitto, e poi tornate tenendo il braccio perpendicolare a terra, e vi accorgerete che si muove qualcosa. Cosa si muove? Molto lentamente, non a scatto. E visto che non avete risposto, vi aiuto io. Vi accorgerete che quando allungate il braccio verso il soffitto, la scapola si muove in fuori verso il soffitto. Allora, man mano che lo fate, lentamente salite con la mano verso il soffitto e permettete alla scapola di muoversi in fuori. Anche la scapola ha una posizione di partenza che non è né troppo indentro verso la colonna vertebrale né troppo in fuori. E da quella posizione di partenza, quando allungate il braccio al soffitto, si muove in fuori. E osservate come lo fate, tutto un movimento piccolissimo, lentissimo, fluido, fatto ascoltando come reagisce il resto del corpo. Quindi evitate, se potete, di fare un movimento veloce, stare in quella posizione e poi mollare e lasciare andare. No, no, è tutto tutto a velocità lentissima e costante, sia l'andata che il ritorno. Molte persone pensano che muoversi lentamente consiste in fare un movimento veloce e stare fermi là dove si arriva. No, non è quello, è piano, piano, piano, costantemente a velocità lentissima arrivo e da lì appena arrivata costantemente torno. È lo stare fermo che dura pochissimo, ma l'andata e il ritorno, anche se molto molto piccoli e molto molto lenti, sono continui. E quando avete bisogno di riposarvi, anche se io non vi do la pausa, fermatevi. Vi ricordate, ve lo dico sempre. Quindi quando avete bisogno di riposarvi, vi fermate. E se avete bisogno di mettervi anche supini a pancia in su, lo fate anche se io vado avanti. Non c'è niente di meglio che ascoltare quello che chiede il corpo, cosa che non siamo abituati a fare. La testa mi rotola avanti. Pian piano tutto si muove. Vi accorgerete che piano piano arrivate a muovere tutto il corpo. È sempre il solito discorso, il movimento di una parte nel Feldenkrais è il pretesto per muovere tutto il corpo. Ok, vi fermate un attimo. Se volete anche a pancia in su, supini, come state meglio? Mi raccomando, senza mai forzare, anche se fate uno o due movimenti va bene. Ok, ritornate sullo stesso fianco di prima. Allungate il braccio al soffitto in posizione di partenza, quindi perpendicolare a terra, bene sul fianco con le gambe piegate a seggiolina, quindi seggiolina intendo dire 90 gradi tra tronco e coscia e 90 tra coscia e gamba. Dovesse essere come se fosse una seggiola. E questa volta, invece che allungare il braccio al soffitto, il braccio in posizione di partenza è sollevato. State col braccio sollevato al soffitto, tenendolo là. Questa volta, invece che allungarlo ancora di più come abbiamo fatto prima, lo accorciate. E per accorciare non vuol dire piegare, ma accorciare vuol dire tenere il braccio allungato, ma permettere alla scapola di muoversi in dentro verso la colonna vertebrale. E poi ritornate in posizione di partenza. Non col braccio allungato come abbiamo fatto prima, ma per il momento in posizione di partenza. Vi ricordo che se per esempio siete sul fianco sinistro, è il braccio destro che è allungato al soffitto. Allungato significa non piegato, quindi il gomito è allineato e non c'è il braccio che si piega. E tenendo il braccio allungato, come se fosse il manico di una scopa, ma non teso, non rigido, avvicinate la scapola alla colonna vertebrale molto, molto lentamente. Perché mi tremo il braccio? Perché non sei abituata a farlo e forse è troppo, quindi riposati. Ascolta, ma se per accorciare, diciamo, la scapola, no? Per far rientrare la scapola, mi inclino sul lato destro, va bene? Cioè, nel senso che Certo, ricordate il solito discorso che il movimento di una parte è il pretesto per muovere piano piano tutto il corpo. Quindi, quando avvicinate la scapola alla colonna vertebrale per accorciare il braccio, e non è che il braccio si piega o diventa più corto, semplicemente andando la scapola in dentro, il braccio salga di meno il soffitto perché va in dentro, giusto? Facendo quel movimento, se state liberi e respirate e lasciate passare il movimento nel corpo, vi accorgerete che non è solo il braccio e la scapola che si muovono, ma se fate attenzione vi accorgerete che pian piano si muove anche il torace, il collo, la testa, tutto il corpo. Il famoso discorso dello scongelarsi, di un coniglio congelato che pian piano al sole o sotto l'acqua calda, prima di essere cucinato, viene scongelato. Lo stesso noi siamo congelati dalla tensione, stress, dolore, eccetera, e piano piano, facendo il movimento lentamente e in ascolto dal cervello, imparate nuovi modi di movimento e quindi ci si scioglie. A me piace molto questa metafora, parti congelato e pian piano a fine lezione si è scongelato. E vi fermate rimanendo sul fianco. E adesso riallungate il braccio al soffitto e unite i due movimenti, quindi allungate il braccio verso il soffitto e lasciate che la scapola si muova in fuori verso il soffitto, allontanandosi dalla colonna vertebrale, e poi che la scapola si muova in dentro verso la colonna vertebrale e il braccio quindi si accorcia. E osservate quale altre parti vogliono pian piano cominciare a sciogliersi, a muoversi, a condividere il movimento. E osservate se state respirando. A volte ci si concentra a tal punto che si blocca il respiro. E vi accorgerete, man mano che continuate, che quando allungate il braccio al soffitto, la testa, il torace, il collo ruotano avanti come per guardare verso il pavimento. Quando avvicinate la scapola alla colonna vertebrale, la testa, la spalla e il torace si girano verso il soffitto, quasi come per andare la pancia in su. Raffaella, non è il contrario. Prova. Allora, continua. Continua a fare. Forse guarda che non hai il braccio perpendicolare, ma hai le mani indietro. Mettilo più perpendicolare, più avanti. Ok, e vai. Quando allungo il braccio, La mano tende a girare. Yes. E adesso la testa a rotolare. Yes. E quando invece il braccio si accorcia, il viso guarda verso l'alto, mm-hmm. e anche il bacino si sposta, mm-hmm. e il ginocchio destro apre. Uh-huh. Mentre quando si stende verso l'alto, scivola in avanti. Perfetto. Infatti adesso ci aggiungiamo tutti quei dettagli. Sei all'avanguardia. Rimanete fermi, appoggiate il braccio sopra l'altro davanti a voi e tenendo ferme le braccia e le spalle e tenendo fermi i piedi, fate scivolare il ginocchio della gamba sopra. Facciamo sempre l'esempio, se siete sul fianco sinistro, il ginocchio destro, lo fate scivolare avanti, sopra l'altra coscia. Il piede sta fermo, no, non in su verso la pancia, ma avanti. Abbiate come l'idea di un cassetto che si apre e che si chiude. Quindi il piede sta fermo. Se siete sul fianco sinistro, ad esempio, il piede destro sta fermo e è solo il ginocchio destro che, tirandosi ovviamente la coscia, scivola avanti come per aprire il cassetto e poi ritorna. Quindi il ginocchio scivola avanti sull'altra coscia, sull'altro femore. E ovviamente sentirete che tira il bacino avanti e lo fa tornare in posizione di partenza. Ed ora fate il movimento contrario, quindi sempre il piede destro fermo, questa volta però, il piede destro siete scusate sul fianco sinistro, questa volta però muovete il ginocchio indietro, lo fate scivolare sopra l'altra coscia, indietro, quindi è come se il cassetto adesso si chiudesse, il piede sta fermo, piede fermo. E è il ginocchio, se siete sul fianco sinistro, destro, che scivola sulla coscia sinistra indietro. Quindi se siete sul fianco sinistro, è sempre per fare l'esempio, visto che lo potete ascoltare la registrazione, l'anca destra viene spinta indietro dal movimento del ginocchio destro che scivola indietro. Quindi il cassetto ora si chiude, prima si apriva, e adesso si chiude. E osservate se state respirando e come, e se sentite passare il movimento lungo la colonna vertebrale. E se lo sentite passare, fin dove arriva. Ma se tende a scivolare anche la mano indietro? Sì. A lunga scadenza sì, se potete in questo momento mettete attenzione alla parte bassa e non dico di tenere rigida la parte alta, ma coinvolgetela di meno, perché è un movimento che vi serve per aiutarvi a diventare consapevoli della collaborazione della parte bassa. Se voi muovete subito anche quella alta, non sentite quanto collabora la parte bassa fin a che punto in alto nella schiena. Dopodiché vale sempre il principio che il movimento di una parte coinvolge pian piano tutto il corpo. Ed ora continuate facendo scivolare il ginocchio sopra, avanti e indietro. Quindi aprite e chiudete questo cassetto, respirando con un movimento molto molto lento, gradevole, di ascolto. Ricordate che l'importante non è la quantità, il numero delle ripetizioni, ma la qualità. Come fate il movimento? Come partecipa tutto il corpo? Non a caso sono chiamate consapevolezza, conoscersi attraverso il movimento. Non è ginnastica, ma è una conoscenza attraverso il movimento. E una volta che sai quello che fai, dice Feldenkrais, puoi fare quello che vuoi. Nel senso che puoi imparare nuove vie di movimento senza lavorare in modo stereotipato ed automatico. Quindi si impara a riconoscere le proprie abitudini che vanno bene, ma nel momento in cui diventano dannose per la salute, si può imparare a cambiarle, o meglio ancora, ad apprendere modi diversi. Ok, riposate supini. Osservate come appoggia la parte destra e la parte sinistra. Se c'è differenza. E ritornate sul fianco sul quale eravate prima, sempre allo stesso fianco. Stesso fianco di prima. Stessa spiaggia, stesso mare. Sempre messi a seggiolina. E adesso, prima di allungare il braccio al soffitto, provate una o due volte da braccia avanti, allungare il braccio soffitto e aprire il braccio in fuori a croce, braccia aperte, e chiudete, vedete come viene adesso rispetto a quando abbiamo fatto all'inizio, se c'è qualche minimo piccolo cambiamento. Possiamo aprire le gambe? Tutto quello che vuoi. Essendo una lezione che come al solito coinvolge tutto, però la specificità, l'accento diciamo, è messo sulle spalle e sulle braccia, aggiustate il movimento di tutto il corpo per rendere facile quello delle spalle. Quindi se qualcuno di voi per lasciare andare di più la spalla e il braccio ha bisogno di sollevare il ginocchio sopra, muoverlo un pochino indietro, lo faccia. Perché in questo caso la lezione è per questa parte. Ok, adesso rimanete sul fianco, allungate il braccio al soffitto e di nuovo allungate il braccio e lo accorciate. E osservate come lo fate. Cosa c'è di diverso? Molto, molto lentamente, braccio allungato, allungate il braccio soffitto e vi ricordate cosa succede? Sentirete come prima che la scapola, quando allungate il braccio, va in fuori, la testa rotola guardando verso il pavimento, e quando accorciate il braccio, la scapola si avvicina alla colonna vertebrale, la testa rotola e guarda in su, e il torace anche, come se foste pancia in su, e continuate, no, non arrivate col braccio aperto, ma è solo da posizione di partenza. La posizione di partenza è sul fianco col braccio perpendicolare a terra. Quindi andate e tornate lì senza arrivare col braccio aperto, è solo la scapola che va dentro e fuori, e il braccio che si allunga, la mano che si allunga e si accorcia verso e dal soffitto ritorna. E osservate adesso come passa il movimento della colonna vertebrale, e se lo sentite arrivare fino al bacino, le ginocchia, o se stanno ferme. Io sento che mi si è completamente sbloccato il bacino. Mm-hmm. Avevo un dolore fortissimo. Mm-hmm. E adesso non ho più dolore, e nello stesso tempo cioè non ho sentito, forse la mia attenzione si era focalizzata su, e non hai sentito le spalle, ok? No, ma può essere anche che tu abbia bisogno in basso e sei bloccata là. Mi sono dimenticata di dirvelo, se la rifarete ascoltandola, chi stando sul fianco sente tensione nell'anca sopra, esempio se siete sul fianco sinistro, se sentite contrarsi l'anca destra, mettete pure un cuscino tra le gambe. Ok, adesso riposate un attimo, state sul fianco, braccia allungate avanti, braccia allungate avanti. E adesso, come qualcuno aveva già scoperto, allungate il braccio al soffitto, in posizione di partenza. E aggiungiamo il dettaglio della mano. Allora, posizione di partenza è col braccio allungato al soffitto e il palmo della mano è avanti. Allora, chiariamo cosa significa avanti. Voi siete sul fianco e il pollice è girato verso la testa e il palmo è avanti. Pollice verso la testa e palmo avanti. Attenzione che non tutti, no, non ho detto ancora di fare il movimento. Mettetevi bene, chiari, in modo che sia compreso, in posizione di partenza. Mezzi siete messi in posizione di partenza, mezzi no. Quindi finché non siete messi con la mano in posizione di partenza, non possiamo farlo. Ok. Allora, la posizione di partenza neutra è col palmo avanti. Adesso, no, avanti, era giusto. No. Pollice verso il soffitto. Il palmo della mano è girato verso la parete davanti a voi. Non in basso verso i piedi, ma verso la parete davanti a voi. Ok. Adesso, quando allungate il braccio, ruotate il pollice verso i piedi, verso il basso, in modo da ruotare il palmo della mano verso la parete dietro di voi. Quindi allungate il braccio e il palmo della mano si ruota verso la parete dietro di voi mentre andate in alto. E quando tornate e andate con le scapole in dentro e accorciate il braccio, il palmo della mano si gira verso la parete davanti a voi e il pollice in su verso la testa. E continuate ad allungare il braccio in questo modo, ruotando la mano in su e ritorno, senza arrivare a tremare, quindi fate un movimento lento, piccolo, gradevole, fluido, riposandovi quando avete bisogno, se siete stanchi. Se non capite cosa state facendo, che è anche possibile, riflettete un attimo e è come quando dovete allungare un braccio per prendere da uno scaffale un libro o prendere una penna dal tavolo. Quando si allunga il braccio per prendere qualcosa, c'è un momento di pronsupinazione dell'avambraccio e della mano. Sta sbloccando il collo. Bene. Allora, quando si allunga il braccio per prendere qualcosa, si ruota anche la mano. E quando si torna, si svita, si avvita e si svita. Provare per credere. Come fare a provare? Nella vita di tutti i giorni, ci pensate un attimo, mentre lo state facendo, vedete che fate così. E man mano lo fate lasciando che si coinvolga tutto il corpo, dalle punte delle dita fino alle punte dei piedi. Tutto partecipa, tutto è solidale, tutto è uno, il corpo è unito. Ogni parte aiuta l'altra. Il blocco di una parte pian piano blocca tutto il resto. E vi fermate, vi mettete supini, pancia in su. Vi riposate un attimo e osservate se percepite qualche piccola differenza tra un lato e l'altro. Ok, adesso lo facciamo dall'altra parte, ma come facciamo molto spesso, lavorando solo 5 minuti, perché si è già preso da questa parte, partendo con l'immaginarlo e poi col farlo. Allora, cambiate il fianco, mettetevi dall'altra parte, con le braccia allungate avanti, quindi piede sul fianco sinistro, finita sul destro e viceversa, a seggiolina, quindi 90 gradi tra tronco e coscia e 90 tra coscia e gamba, braccia avanti, ginocchia bene su, attenzione che ci sono dei sedili, delle seggiole che uno caverebbe perché non è sedile. Ok, braccia avanti, ed ora, piano piano, prima di cominciare, aprite il braccio che è sopra verso il soffitto e in fuori a braccia aperte a croce, vedete fin dove arrivate, senza forzare, in modo da vedere. Se ha con le gambe arrivo giù, se non è acqua. Come? Se ha con le gambe arrivo giù. Sì, sì, poi dipende. Dipende dal fatto che tu ci pensi ad aprirle, dipende dal fatto che può essere che anche se le apri non sei ancora pronta in alto, cioè tutto un... Dipende l'arrivarci o no dal grado di torsione della colonna vertebrale di ogni persona, dalla scoliosi in un lato o nell'altro, perché a seconda di come la curva della scoliosi da un lato riuscirà facilissimo, dall'altro no. In genere, dopo aver lavorato su un lato, l'altro risulta più facile, ma non è una cosa matematica. Come dice il mio professore, non c'è solo la logica, ma c'è l'uomo con la sua storia. Bene, adesso state con le braccia avanti, una mano sopra l'altra, gambe piegate, ginocchia bene in su, verso il torace, a seggiolina, e immaginate di avere il braccio allungato verso il soffitto e di allungarlo e di accorciarlo muovendolo verso il soffitto. Se volete potete mettere il braccio in alto, tenendolo in alto, immaginare di muoverlo in su verso il soffitto e in dentro accorciandolo. Lei ha solo immaginarlo. Per il momento è solo immaginarlo. Ma immaginarlo non significa dormire o pensare ad altro. È la cosa più difficile, non è più semplice immaginarlo. È un modo di lavorare diverso, ma è un modo di lavorare, non di dormire. E poi man mano immaginate il contorno del resto del corpo, quindi quando allungate questo braccio immaginate cosa fate con il collo, con la testa, col torace. E visto che dall'altra parte l'avete fatto, siete in grado di immaginarlo, perché si può immaginare solo qualcosa che si è fatto, il quale sia la coordinazione. E poi appoggiate il braccio e immaginate il movimento del ginocchio sopra che scivola avanti e indietro come se fosse un cassetto che si apre e si chiude, e ovviamente ricordate, immaginatelo, immaginate di farlo tenendo il piede fermo. Ok, e adesso immaginate di nuovo allungate il braccio soffitto, tenendo il braccio allungato fermo, immaginate di allungare il braccio al soffitto e appoggiarlo e vedere come ora viene coinvolto tutto il corpo, a partire dalla mano, il braccio, la scapola, il collo, la testa, il torace, la colonna vertebrale, il bacino, il ginocchio, fino in fondo ai piedi, dalle punte delle dita delle mani a quelle dei piedi. E provate a farlo. Quindi braccio allungato al soffitto, braccio allungato al soffitto, provate ad allungare il braccio e ad accorciarlo. E osservate come viene, cercando di fare in modo che il movimento viene a parte, sia il pretesto per pian piano muovere tutto. Una parte del corpo influisce su tutto il corpo. Vi riposate e prima di farlo immaginiamo il movimento della mano come abbiamo fatto dall'altra parte. Quindi immaginate di essere col braccio allungato al soffitto con il palmo avanti verso la parete davanti a voi. Quindi il pollice è verso la testa e la mano, non si fa ancora, e la mano è girata col palmo avanti. Questa è la posizione di partenza. E quando si va con la scapola in dentro verso la colonna vertebrale, dopodiché piano piano cominciate con l'immaginazione a ruotare il palmo della mano in modo che questa volta il pollice vada in giù verso i piedi e il palmo della mano arrivi a guardare verso la parete dietro di voi. E continuate. Allungate il braccio verso il soffitto e ruotate il palmo indietro. Accorciate il braccio avvicinando la scapola alla colonna vertebrale e ruotate il palmo verso la parete davanti a voi. E quando vi pare più o meno che sia chiaro, provate a farlo. Braccio sopra, se siete sul fianco, questa volta a destra, braccio sinistro allungato al soffitto. E man mano, quando allungate il braccio al soffitto, il palmo ruota indietro e il pollice in giù, verso la parete dietro di voi. E quando avvicinate la scapola alla colonna vertebrale, il palmo ruota avanti e il pollice in su. E pian piano questo movimento della mano che parte tira tutto il corpo. La mano ha un fine da raggiungere, un libro da prendere sullo scaffale, una penna sul tavolo, qualcosa, e tutto il resto si organizza su questo fine. Ok, vi fermate, mettete le braccia avanti l'una sopra l'altra e per l'ultima volta provate ad aprire fuori le braccia a croce e a chiuderle e osservate come viene adesso il movimento. Ok, perché vi fermate, arrotolate supini, a pancia in su. Chi ha messo due cuscini per lavorare sul fianco, tolga quelli in più. Quindi rimanete col supporto del quale avete bisogno sopra la testa, in modo che mento e fronte stiano alla stessa altezza. E poi cominciamo ad osservare gli appoggi di tutte le parti del corpo, partendo dai piedi e salendo fino alla testa. Quindi osservate come ho messo un piede, l'altro. Vi ricordate che siamo sempre asimmetrici, perché ciascuno di noi ha la sua storia di movimento, di educazione corporea, per cui c'è sempre una gamba che porta di più il peso, una gamba che invece è più libera. Quindi la simmetria assoluta nel corpo vivente non c'è. E poi osservate come appoggio il tallone, il polpaccio, la parte posteriore del ginocchio, della coscia. Come appoggia il bacino a destra, a sinistra. Come è messo il coccige, l'osso sacro, l'arco lombare, le vertebre toraciche, le costole, le scapole. Collo, la testa, come tenete la bocca. E infine, come sono messe le spalle e le braccia. E quando siete pronti, lentamente arrotolate sul fianco, vi sedete, vi alzate e osservate come è stato in piedi. Prima di muovervi, andare a cambiare, eccetera, osservate come è stato in piedi. E magari fate qualche passo camminando indietro. Il peso un po' di sole. Prima le persone, poi i rumori, anche se abbiamo avuto sottofondo delle macchine, almeno avete respirato. E osservate come camminate indietro, all'indietro, non girandovi, ma camminando indietro come i gamberi, piano piano piano, guardando avanti, non per terra, che non c'è niente da trovare. Ok, potete sciogliere le righe.